folle sol, un folle questo. Oh, sei confuso, iniquo! In questa guisa tradisci Cleopatra. Questa è la fede ingrato che mi vieni a giurar. Il tutto intorno di giubilo e di festa per me risuona, e solo della mia schiavitù la gioia esprime. Per un'alma real così sopprime. Ascolti! Che dirai? Forse pretende negar un foglio infame che dettò la perfidia, che scrisse la tua mano. Io son! Tu sei uno sperduto regno, un chifo grande, un numero di colpi col nome di virtù. Ma il cielo! Il cielo dovrebbe fulminarti! Fermati per pietà! Sì! Forse vuoi che serva me vegan coligetto, forse tutta paga, io stessa già mi spoglio dell'inutile corona e te la getto al piè senza cotesta, pur il cor di regina ancor mi resta. Stupido son, ah, dei, qual improvviso fulmine me colpì! Cesare, il foglio che al senato inviar doveo, per dei, ne so come impugnar. Rivir, amico, ecco il foglio fatal, lo ricevei dalla regina, ella lo lesse frene, tu le parla per me. Dite, in segno del mio sincero amor, l'aspetto adesso nella sala real. Ove a dispetto di Roma e dell'Egitto, mia consorte sarà. Fata l'affetto delle barbare sempre provar, cittadini, pur la legge d'amicizia e di fe che ti giurai senza contrasto a secondarmi chiama quello che il tuo pensier dispone o brama. Voi mi sapete nomi che colpevol non so, eppur assembro un empio e un infede. Questo Dio, il più ingiusto e crudel tormento mio. sarà, né più trovare la regina possio. Dove conduce un cieco affetto, appena in Cesare trovar posso l'eroe, dopo che sente amor. Ma vien a stelle, bella ancor sdegnata. Ma se pur vero, bella regina, che finora amasti in Cesare il tuo ben, credimi, a torto adesso lo condanni, ignoti l'alma sua sono gli inganni. Più non riguardo in lui che un vile oggetto del mio furor. Ma troppo sei facile a sospettar, Cesare mai d'ingannarti pensò, vuole soltanto deludere il senato. Gli stessi nomi in testimonio chiamo dell'innocenza sua. Chi ha solto, o cieli, forse vero sarà. Ama, di sposo ti conferma la fede, in quest'ora medesma i vuose bravi stringere la tua mano. Dell'amor mio prova evidente sia, non rifiutare l'offerta che mi fa. Oh, quanto in cuor di donna un sospetto può mai, cambia l'amore in odio facilmente, e con ragione dubito Cleopatra. Ah, che la frode fortunata non è, deve un regnante che stima far onore portar la verità sempre nel cuore. Thank you. onestà. Il mio valore fece tutto per te. Se vincitori regni scossi e l'oceano profondo, lo scettro a te si fabbricò del mondo. In questo nessuno in me, in cui solura la mia vittoria, al trono ascenderò. Per te languire tempestia si principio, io general perdono a nemici concedo, ne fuor che fede altro da lor richiedo. Vieni, regina, a me lo scettro e la corona, e questo adorata regina del tuo paterno soglio il diadema. In breve servirà questa corona per adornarmi altrove onorate tue chiome. E ti prometto sotto il cielo romano un impero maggior nella mia mano. Resta sol che l'Egitto sua regina,